Arriviamo al momento tanto atteso da tutti e quindi io sono contento di dare la parola a Deborah Gabaglio, che è una new entry per noi e siamo ben felici di poterlo ospitare, e a Roberto Costantini. Buona serata. Se fossimo in un film, questo potrebbe essere il leitmotiv che accompagna i momenti salienti del suo protagonista, ma noi non siamo in un film, siamo in un libro, anzi in cinque libri, una trilogia del male che si è aggiudicata il premio Scerbanenko come miglior romanzo noir degli anni 2000, non poco. A cui hanno seguito altri due libri, protagonista di tutti questi romanzi, di tutti questi gialli, un unico personaggio, Michele Balistreri. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Buonasera a Roberto Costantini, Buonasera. autore di questi libri, padre per fortuna. Solo sulla carta di questo personaggio, poi per chi non lo conosce scoprirete perché, ma soprattutto, insomma, ha scelto questa canzone. Questa è una canzone che è presente nelle sue storie. Quindi, come mai stiamo ascoltando Cohen, Leonard Cohen, Bird on a Wire? Tanto buonasera a tutti e grazie di essere qui. Per me è bellissimo vedere questa sala piena e provo a rispondere a questa domanda. Deborah mi ha fatto un po' questa sorpresa di Bird on the Wire. Il tema di questa canzone è il desiderio di essere libero, no? Bird on the Wire è l'uccellino che sta sul filo e ovviamente a seconda di come soffia il vento l'uccellino sta aggrappato un po' al filo, un po' sbanda da una parte, un po' dall'altra. Il protagonista Michele Balistreri dei miei libri è un protagonista particolare, che io ho disegnato per essere un protagonista particolare, perché non ha la forza caratteriale della maggior parte dei commissari di successo. Tra l'altro, nei miei libri voi lo conoscete sin da quando è ragazzino, sin da quando ha 16 anni, e poi va avanti fino a quando ne ha 60 e passa, a seconda dei libri, dei diversi libri. Lui è un adolescente che da adolescente subisce una delle cose peggiori che possono capitare a un ragazzo, ed è la perdita della madre. E non solo, perché questa perdita della madre è un suicidio, forse, forse non un suicidio, ed è qualcosa che lui attribuisce al padre. Ora, se voi immaginaste per un attimo che questa non fosse fiction ma fosse vera, cioè una cosa che accade veramente a un ragazzo a 16 anni, beh, è chiaro che questa è una cosa che poi in qualche modo ha le sue ripercussioni per tutta la vita. E diciamo che tutti i miei libri hanno questa componente di Michele Balistreri che lo rendono così difficile, così ostile, così banalmente diremmo cattivo, in realtà molto fragile. La canzone di Cohen esprime proprio la fragilità, no? Il Bird on the Wire dà l'idea di questo uccellino che su questo filo dice: no, mi sentivo in un modo, mi sentivo in un altro, a seconda dei momenti della vita. Un Michele Balistreri, insomma, è stato anticipato che ha avuto una grande sofferenza da ragazzo, ma questo dagli occhi del lettore che si avvicina a quest'opera, insomma, non frena dallo scoprire che ne ha tanti di lati negativi che potrebbero frenare veramente anche il più volonteroso dei lettori, perché È vero, sì. lo vediamo da ragazzino già che uccide un leone in Tanzania a sangue freddo, poi arriva in Italia, sta per uccidere uno dei grossi personaggi della storia degli ultimi 50 anni, scopriremo chi. Ha militato in ordine nuovo, insomma, l'estrema destra extraparlamentare italiana si infiltra anche nei servizi e poi quando diventa poliziotto non lo fa certo proprio con tanta voglia, insomma, ci finisce un po' per caso, un po' per fortuna, poi per fortuna lo diventa perché sarà in ogni caso un grande commissario. Un personaggio che però infatti è una sfida al lettore, perché insomma questo Michele Balistreri a pagina, meno di 20 pagine, cioè, ci viene presentato come questa specie di mostro e noi comunque leggiamo i 5 libri. Comunque questo libro è stato acquistato ancora prima di essere pubblicato in Italia, per essere tradotto in 15 lingue, scusate, distribuito in 25 paesi. Quindi immaginatevi che presa deve aver avuto Balistreri. Cosa ci rapisce di questo personaggio? Beh, cosa ci rapisce? Non deve dirlo chi scrive, ma deve dirlo chi legge, perché poi altrimenti si diventa sempre autoreferenziali. Io posso dirvi quello che ho pensato da scrittore quando ho iniziato a scrivere, perché quasi tutti gli scrittori sono ex lettori, quindi uno nasce leggendo e poi casomai da lì inizia a scrivere. Io sin da ragazzino adoravo gialli, che credo sia una delle componenti necessarie per scrivere dei buoni gialli. E per dirvi, insomma, a 16 anni mi avevo già letto tutti gli 82 libri di Agatha Christie, credo che sono 82-83, insomma, quindi, e così via, Simenon, eccetera. E ho sempre avuto, man mano che crescevo poi con gli anni e non avevo il tempo solamente di scrivere, però ogni tanto leggevo altri gialli, ne leggevo altri, mi domandavo sempre, ma se ci fosse un protagonista non solo violento o alcolizzato o con un passato difficile, ma veramente spregevole. Capite la differenza, no? Perché tutti abbiamo letto, insomma, cioè, sono tanti, però veramente spregevole è qualcosa di diverso. Potrebbe avere successo lo stesso un commissario di polizia, un poliziotto veramente che ha delle caratteristiche nel suo carattere veramente spregevole? Allora, questa è la prima domanda, no? Mi incuriosiva questa cosa. E quando ho cominciato a pensare a Balistreri, io l'ho cominciato a pensare così: qualcuno che avesse tante cose nel suo carattere, complicate, difficili, diverse tra loro in modo tale che almeno una risultasse spregevole a chiunque, no? Nel senso, faccio un esempio: il fatto che lui sia scritto a ordine nuovo ad alcuni può dare fastidio, ma ad altri magari no. Quindi avevo bisogno che ci fossero varie cose, no? Varie cose di vario tipo. E quindi è stato costruito con questo. Vi faccio un esempio per capirci. No, io sono genitore, ho due figli adolescenti, adesso un po' più che adolescenti, ma insomma quando ho iniziato a scrivere erano adolescenti, forse tanti di voi hanno figli, quindi calatevi un attimo nella storia che vi racconto, no? Michele Balistreri, al suo primo incarico da poliziotto, siamo nel 1982, lui è responsabile di un commissariato a Roma nel quartiere di Vigna Clara. Tenete conto che Vigna Clara è un quartiere di Roma di una tranquillità totale, no? Viene descritto come un quartiere dove al massimo rubano il cane pregiato di qualche persona importante. Lui è il capo di questo commissariato ed è una sera particolare perché è l'11 luglio del 1982. Ora io non so se questa data vi riecheggia qualche cosa, però l'11 luglio dell'82 in Italia, sarà trasformata in festa nazionale, soprattutto visto l'esito che la nazionale italiana sta avendo adesso, perché sarà ricordata come la sera in cui l'Italia di Berzot batté la Germania per 3-1. Quella sera Michele Balistreri è di turno al commissariato, ma decide che intende vedersi la partita a casa con gli amici, per cui dice al suo vice: io vado a casa degli amici, tanto non succede niente, non mi scocciate per nessun motivo, se qualcuno si vuole suicidare ditegli di suicidarsi domani. E sparisce. Alla fine del primo tempo riceve una telefonata dal suo vice che gli dice: guarda, qui ci sono due genitori la cui figlia diciottenne non è tornata a casa, doveva tornare a casa a vedere la partita, sono preoccupatissimi, ancora non c'erano i telefonini nell'82. E Michele Balistreri, che vuole continuare a vedersi la partita, risponde quello che poi, se leggerete i miei libri, è nella sua natura risponde, dire: sì sì, ma la ragazza sarà in giro a divertirsi con gli amici, dite a questi due, che sono i soliti genitori italiani apprensivi, di non scocciare. E rimane a vedersi il secondo tempo della partita. Poi la ragazza sarà trovata cadavere nel Tevere e vi faccio grazia delle bestie. Ora, questa cosa, voi direte: perché ve l'ho raccontata? Ma perché quando io l'ho fatta leggere a mia moglie questa cosa, da genitore, mia moglie mi ha detto: ma guarda che nessuno potrà accettare cose di questo genere in un personaggio, perché chiunque genitore rispetto a una cosa di questo genere se la immagini vera, ed è vero, no? Ecco, sono delle cose che sono proprio repellenti in sé, no? Quindi uno che si assenta dal lavoro, che non ha nessuna sensibilità rispetto a due genitori la cui figlia non è tornata, cioè il peggio del peggio. Ecco, Balistreri assomma dentro di sé il peggio del peggio, di tante cose. Voi direte: ma allora come hai fatto a vendere tutti questi libri in tutto il mondo, eccetera, eccetera? E la mia risposta è: purtroppo, credo che sia proprio perché assomma il peggio del peggio. il che ci conduce a pensare, dire, ma come siamo fatti? Ora, diciamo che poi è una semplificazione, Balistrevi ha una cosa, che la conoscenza che il lettore ha gradualmente del suo passato, di questa cosa della madre morta in quel modo, di quello dell'innocenza che lui aveva da ragazzino, perché da ragazzino non era così, perché uno lo conosce da adulto, ma poi in qualche modo non è che rende perdonabile le atrocità che commette, però le rende spiegabili, e quindi lo prendiamo un po' come un figlio, e come le donne che lui disprezza, che vede solo in orizzontale o sul suo letto o sul tavolo dell'obitorio, eccetera, eccetera. Però lo amano perché alla fine c'è questa cosa tipicamente femminile di pensare sempre di poter cambiare gli uomini, e Balistrevi è il tipo d'uomo che ogni donna dice lo cambio io, e poi dopo è un po' complicato. E infatti noi ci affezioniamo veramente a questo personaggio, come diceva Roberto Costantini, sull'arco di tutti questi libri, soprattutto parliamo della trilogia del male, insomma il corpo più compatto che ci descrive passato, presente, magari un filo di futuro di Balistrereri. Noi ci affezioniamo perché in effetti Balistrereri ha in sé un qualcosa, un'integrità, c'è qualcosa che comunque lo tiene legato a magari una sua visione del mondo, una sua visione della giustizia, che non è la giustizia, chiaramente, questo lo scopriamo fin da subito, come si dice. No, c'è una cosa sottile, no? Una lealtà. Io sono ingegnere, mi occupo di marketing da tutta la vita, quindi è una cosa un po' diversa, e ho messo dentro il personaggio di Balistrevi quella cosa che è un po' come la cioccolata, che quando l'assaggi poi comunque alla fine ti piace, anche se sai che ti fa male, sai che ha tutta una serie di svantaggi. Poi non bisogna parlare male della cioccolata in Svizzera, per cui è una gaffa tremenda, per cui diciamo la cioccolata fa bene. Però Balistrevi ha dentro di sé, in mezzo a questa enormità di cose atroci, bruttissime, io vi ho fatto solo un esempio, poi ce ne sono N di esempi di Balistrevi, però ha una qualità che non viene detta espressamente, ma che il lettore nota man mano che legge, cioè si accorge il lettore man mano che legge i libri, ed è una qualità banale ma molto particolare, ed è che non dice mai bugie. Ora, questa cosa non dice bugie alle donne, non dice bugie agli amici, non dice bugie a nessuno. Ora, questa cosa che può sembrare banale, in realtà ripetuta, io so che mettendola in varie forme, provoca in chi legge una sensazione di questo tipo. Ma questo non dice bugie, mentre io dico bugie ogni giorno, non voi, in generale, milioni di persone lettori, nel senso che ciascuno di noi dice bugie. Dice bugie a se stesso, dice bugie agli altri, bugie piccole, non grandi, però noi viviamo una vita in cui la vita ci ha insegnato che dire bugie è un aiuto al nostro modo di vivere, no? Diciamolo così. Ce l'hanno insegnato in tutti i modi, nel business school dove io insegno, lo insegniamo questo, no? Quindi, ecco, voi sentite che Michele Balistrevi ha questa strana cosa, come se fosse una malattia il fatto che lui non dica bugie, perché è una cosa che non ha senso, perché ti va a tuo danno. E questa cosa rende tollerabili in qualche modo tutte le altre. E questa questione qui della mancanza di bugie, no? Quando lui, con le donne alla fine, dopo che ogni volta le storie finiscono male, però le donne gli dicono, in effetti, tu me l'avevi detto dall'inizio, sei l'unico uomo che conosco che non mi ha mai detto una bugia, no? E questa è la fine, la cosa per cui in qualche modo funziona. Comunque, poi queste cose sono delle cose che col tempo, man mano che uno scrittore quando parte con un'idea, poi non credo che Camilleri quando ha scritto Montalbano avesse previsto tutto per filo e per segno, uno parte con un'idea e poi man mano lo sviluppa. È influenzato anche da quello che è la risposta del pubblico, da tante cose, però questa era l'idea di partenza. Ho avuto un po' di difficoltà perché quando io sono partito con il primo libro, con Tu sei male, e ho inventato questo personaggio, non avevo nessuna credibilità, nel senso che avendo fatto per 30 anni l'uomo d'azienda e quando ho scritto Tu sei male avevo già 57-58 anni, non avevo credibilità né all'esterno né all'interno della mia famiglia, per cui mia moglie e i due adolescenti, chiunque abbia degli adolescenti sapete che non è mai molto facile il rapporto quando hanno quell'età tra i 15 e i 18, insomma sono un po', io ne ho una femmina, ho una femmina e un maschio, per cui questi si sono trovati di colpo in casa questo vecchio signore, come loro mi giudicano, visto dal punto di vista dei figli, che aveva deciso di diventare uno scrittore e che in questa sua ambizione soprattutto occupava uno dei due computer fissi che avevamo a casa, e i due computer sono loro, quindi questa cosa già era un grossissimo ostacolo. Il fatto che loro trovassero questo che loro chiamano un vecchio babbeo che doveva scrivere questi libri, occupava il loro computer, generava una serie di tensioni in famiglia non da poco. Poi loro parlano attraverso la madre, no? Per cui andavano da mia moglie e le dicevano: ma digli di andare a lavorare, ma che non si vergogna, che cos'è questa storia che deve scrivere, chi glielo pubblica un libro, questo qui ci occupa il computer, e a tutte queste voci che giravano per casa, no? E quindi c'era un'atmosfera non facilissima. Poi quando hanno letto, perché loro sono stati il primo test, la bozza del personaggio di Balistrevi, figuriamoci, ho detto: ma questo è matto, ma come è possibile, ma sta cosa, che vergogna, papà che scrive queste cose, non vogliamo, digli di non scrivere questa roba qui, ma questo, questi personaggi così, ma come gli viene in mente? Comunque nessuno glielo pubblicherà, per cui fino a nessuno glielo pubblicherà c'era solo il fastidio del occupazione del computer, che non è una cosa da poco, perché ovviamente questi protestavano molto, no? Quando poi hanno scoperto che Marsilio, cioè Rizzoli, aveva deciso di pubblicare Tu sei il male, allora la cosa ha cominciato a diventare più complicata, perché loro hanno cominciato a temere una vergogna pubblica, cioè una cosa che a questo punto non era più solo privata, ma questa cosa di questo personaggio scabroso diventava, per cui loro diventavano i figli di qualcuno che aveva scritto questa terribile schifezza e sarebbero stati additati al pubblico ludibrio, no? Per cui ancora di più con mamma: no, ma poi com'è che glielo pubblico? Si vede che perché papà sta in Confindustria, è raccomandato, perché poi i ragazzi così, capito? Cioè, non è che poteva essere, no il tuo libro. E vabbè, e dopodiché esce questo Tu sei il male. Prima che esca Tu sei il male, perché questa è storia vera, alla Fiera di Londra, alla Fiera del Libro di Londra, Rizzoli, che è insomma il capofila di Marsilio, riesce a vende i diritti di Tu sei il male, col libro ancora non uscito, in 15 paesi del mondo, vende i diritti cinematografici, tutto, cioè prima che il libro esca, quindi già, cioè, dopodiché esce Tu sei il male e Antonio Dorrico, che è il principale critico letterario sui gialli in Italia, sul Corriere della Sera, per la prima volta nella storia dei gialli in Italia, pubblica due pagine intere, non nell'inserto della lettura, ma nel Corriere della Sera, scrivendo, uso parole sue testuali perché erano pure imbarazzanti, che questo libro è un capolavoro assoluto, e questo non è neanche discutibile, che se Nietzsche, se Friedrich Nietzsche tornasse sulla Terra, scriverebbe Tu sei il male, per cui adesso a Roma, quando io gioco a calcetto, mi pendono in giro e dicono: a Nietzsche, passaci la palla, queste cose qua. Però questa cosa ho detto, dico, adesso avrò la rivalsa su quei due delinquenti, perché con questa testimonianza qui non si sfugge più per cui chiamo a casa mia madre e mia moglie, le dico: senti, compra il Corriere della Sera, perché non è il giornale che noi compriamo normalmente, dico: compra il Corriere della Sera, mettilo bene in evidenza in casa e fai in modo che lo vedano. La sera io torno a casa, scusami, Deborah, ti sono no, ma interessantissimo. Una cosa, perché se poi sei, no, tanto poi del giallo parliamo, ma insomma a volte anche le cose di contorno aiutano a capire. Torno a casa la sera e a quel tempo ancora mangiavano con noi i due delinquenti, come li chiamo io oggi ovviamente. Quindi ci sediamo a tavola, io, mia moglie Carolina e Fabrizio, e insomma io mi aspettavo. Cominciamo a parlare, niente, si parla di tutto, meno che di questa cosa del mio giallo. Il giallo non viene nominato. Cioè, finisce la cena, loro come al solito si alzano e vanno sui computer, su Facebook, eccetera, eccetera. Io rimango con mia moglie e dico: scusa, ma non ho capito, ma il Corriere della Sera sta lì, l'hanno letto il Corriere della Sera. E mia moglie, un po' imbarazzata, mi fa, dice: sì, guarda, non ti devi arrabbiare, loro l'hanno letto, però sai come sono, soprattutto Fabrizio, che è il maschio, perché ovviamente il maschio è ancora più della femmina verso il padre, dice: sai, Fabrizio ha detto, ma dice, si vede che la letteratura italiana è ridotta proprio uno schifo. questo, per cui certi inizi sono faticosi. Se io, mia moglie si è lamentata che Tu sei il male non è dedicato alla famiglia, alla nostra. Le ho detto: guarda, avrei dovuto scrivere nel caso, sono riuscito nonostante la mia famiglia a scrivere questo libro, per cui dovete essere contenti. Quindi Balistrevi è nato con un parto molto complicato, capito? Anche dal punto di vista familiare. E ne sono seguiti altre due, perché è impossibile pensare che Tu sei il male sia nato da solo, pensando all'incredibile intreccio narrativo che ci porta tra la Libia abitata dagli italiani all'Italia, insomma, dal 58 ai giorni d'oggi vediamo tutto quello che è successo, con personaggi ben definiti, ben raccontati, enigmi che si aprono in un libro, si rivelano parzialmente in un altro per poi trovare la soluzione nel terzo. Come è stata scritta questa trilogia? È una trilogia, non è un libro unico. Sì, non è una trilogia vera, nel senso che i primi tre libri, Tu sei il male, alle radici del male, il male non dimentica, perché poi abbiamo avuto questo problema del titolo, perché il primo è nato con Tu sei il male. Il secondo abbiamo fatto, siccome il secondo è un prequel, quando Balistrevi, nel primo Balistrevi è già un commissario di polizia, nel secondo inizia prima, quando lui è in Libia negli anni 60, ai tempi di Gheddafi, che arriva Gheddafi, quindi della parte iniziale della storia di Gheddafi. Abbiamo detto alle radici del male, poi il terzo ci siamo trovati che dovevamo concludere con sto male, per cui abbiamo fatto una riunione anche di famiglia, i ragazzi naturalmente hanno detto chiamalo, meno male che finisce, perché ancora c'era questa cosa qua. Io volevo mettere 50 sfumature del male, perché volevo in qualche modo vendere molte copie, però poi insomma non è stato accettato, per cui siamo arrivati al male, non dimentica, però l'idea era effettivamente l'idea di raccontare attraverso, senza adesso volersela tirare più di tanto, e lo dico così per capire, l'idea era attraverso tre gialli, perché sono tutti e tre dei gialli, ognuno preso a sé è un giallo, nel senso che c'è una storia gialla tipica, classica, cioè di quella in cui devi capire chi è l'assassino e alla fine del libro sai chi è l'assassino di quel libro, però c'è una storia trasversale che attraversa i tre libri, che i tre libri vanno dal 1958 a quando muore Gheddafi, al 2001, iniziano con l'arrivo di Gheddafi, finiscono con la fine di Gheddafi, perché c'è un filo conduttore che è quello. E volevo, attraverso questi tre libri, raccontare la storia del mio paese, che è l'Italia, la Libia è stata una colonia dell'Italia, di cui la storia del mio paese, che è l'Italia, vista da quello che io chiamo un occhio minoritario, che è l'occhio di Michele Balistrevi, che è un occhio che non vede la storia dell'Italia così come la vede l'italiano medio come sono io. Tant'è vero che su molte cose ho proprio dovuto scindermi, perché la visione di Balistrevi dell'Italia è una visione che io non condivido, per esempio su moltissimi punti, su alcuni sì, ma su tanti altri no. La chiamo un paese di traditori. Balistrevi ripete sempre che l'Italia, ricordatevi quella cosa che vi ho detto, l'unico lato positivo che lui ha è che lui non dice mai bugie, capito? Quindi è questa la fissazione dentro di sé, perché ritiene che suo padre gli abbia mentito. Suo padre è l'artefice nella sua testa dell'arrivo di Gheddafi in Libia, della morte di sua madre, della cacciata degli italiani della Libia, un traditore per fare affari. E quindi lui continua a ripetere sempre: l'Italia è un paese di 60 milioni di traditori, i nostri padri della patria che ci hanno presumibilmente liberato da, sono in realtà dei traditori, eccetera, eccetera. Sono cose che, insomma, un po' forti, non, però è una visione diversa della storia. E secondo me le visioni diverse della storia, io che lavoro in un'università dove si insegna anche la storia dentro scienze politiche, le visioni diverse della storia, cioè guardare la storia sotto occhi diversi, aiuta molto di più a capire la realtà, nel senso che la storia, sapete, viene scritta quasi sempre dai vincitori, come ovvio che sia, no? Però la storia vista dal punto di vista dei perdenti aiuta a capire che c'era un altro punto di vista che ha perso, che poteva essere meno giusto, più giusto, però che era un punto di vista, e quindi quando è un punto di vista è importante tenerne conto, perché il distanziarsi dal punto di vista di una parte del popolo poi provoca conseguenze, insomma, di vario genere e natura. Voi avete avuto il vostro 4 marzo e per fortuna avete ancora la vostra televisione pubblica. Noi abbiamo avuto il nostro 4 marzo e stiamo ancora a babbo morto, come si dice a Roma, nel senso che ancora aspettiamo di sapere che cosa succede. Non per niente il nome della madre che Balistrevi perde da ragazzo, non sappiamo come, chiaramente, non lo diremo noi questa sera, è Italia, non è un nome scelto a caso. Sì, no, certo, Italia è un nome evocativo perché la morte di Italia è la morte dell'Italia. Insomma, il giorno in cui muore Italia, che è il 31 agosto del 1969, cioè il giorno in cui in Libia un giovane tenente insieme ad altri pochi ufficiali prende possesso del paese petrolifero col quarto livello di giacimenti del mondo di petrolio, apparentemente da soli, il che già pone un punto interrogativo molto grande sulla possibilità che questo avvenga. Quel giorno è il giorno, nell'ottica di Balistrieri, in cui muore sua madre e comincia a morire il nostro paese, perché quello è un tradimento fatto a discapito di molti italiani da italiani, organizzato da italiani. E questa è una visione diversa della storia, però sapete, le visioni della storia, come dicevamo prima, vanno un po' viste anche sotto occhi diversi. Cioè oggi la versione ufficiale della storia è che Harvey Oswald ha ucciso John Fitzgerald Kennedy da solo, però questa è una versione della storia, magari vera, però ce ne sono anche altre, insomma, no? È la stessa cosa. Gheddafi ha un gruppo di 20 giovani, si impossessa della Libia, paese petrolifero enorme, da soli, può essere, però può anche non essere, insomma, ecco, diciamo, quella visione diversa dalla storia è che no, c'è stato qualcun altro che li ha aiutati, e questo qualcun altro ha nomi e cognomi italiani, e due aziende italiane molto importanti, che del resto non ci hanno denunciato, quindi perché nessuno ha avuto da ridire. Anche perché poi, sapete, la storia, quando la rileggi a 40 anni di distanza, le cose che potevano essere discutibili sul momento, 40 anni dopo lo vedi se sono vere o no, no? Cioè, vedi che, insomma, una grande azienda italiana anni dopo è stata salvata, perché altrimenti avrebbe chiuso da Gheddafi, con un investimento azionario importante, che un'altra grande azienda italiana tuttora il suo bilancio si basa sui pozzi petroliferi in Libia, eccetera eccetera, vuol dire che certe cose possono essere andate in un altro modo. Non per niente. No, non voglio annoiarvi con questa, sono dei gialli, perché adesso se no ampliamo, però questo è per dirvi che sono dei gialli, però sono dei gialli un po' diversi dal giallo di Agatha Christie, dove c'è solo da capire l'assassino, e poi per il resto sono questi noiosi paesetti inglesi, insomma, che non è che sia nel massimo dell'eccitazione. Questa è l'Italia al suo top, con tutte le sue complicazioni, eccetera. E poi la Libia, non è, anche questa non è stata scelta a caso da lei, Roberto Costantini, perché così come Michele Balistrieri, anche lei è nato in Libia, anche sì, lei è l'unica 70, cosa che mi accomuna. L'unica cosa, fortunatamente. Sì, anche lei nel 70, in altri modi, insomma, è andato via, ha dovuto lasciare con la sua famiglia questo paese che l'Italia ha colonizzato, dove comunque gli italiani hanno vissuto e sono stati poi cacciati. Sì. Un capitolo che si chiude, che lei ricorda, immagino ovviamente non solo come sua esperienza, quella, il lato emotivo probabilmente, ma a livello storico ricostruisce questo capitolo di storia italiana che è stato nascosto, è stato un pochino velato. Nascosto è il termine giusto, nel senso che io credo che voi che siete qui in sala e rappresentate una media assolutamente normale della popolazione qui in Svizzera o in Italia, sappiate moltissimo di come è finita la storia di Gheddafi, perché è avvenuta pochi anni fa, ma di come è iniziata e di tutta quella storia, gli italiani, credo che la maggior parte delle persone sappia onestamente poco. Io, la cosa che mi ha dato più soddisfazione della trilogia del male non è le copie vendute in tutto il mondo, ma il fatto che tantissima gente nelle presentazioni e poi via mail mi abbia detto: lei mi ha fatto conoscere una parte di storia che io non conoscevo assolutamente, di cui non sapevo nulla, che è la parte prima, la parte dell'arrivo di Gheddafi in Libia. E su quello credo che sia comunque una storia interessante. È una storia, ripeto, che avviene lì, ma è una storia italiana, italianissima. Poi, di nuovo, sono cose, come sempre, la storia è fatta di tante facce, no? Sicuramente in Libia vennero commesse delle atrocità dagli italiani, dai fascisti, quando invasero la Libia, come in qualunque paese dove qualcuno invade un paese. Cioè, però questo è il punto: non sono atrocità diverse da quelle che la Francia ha fatto in Vietnam, non sono atrocità diverse da quelle che gli inglesi hanno fatto in India, sono le stesse atrocità, sono quelle che si commettono quando si va ad invadere un paese, perché altrimenti sembra che noi... No, queste cose... E però è anche vero che queste atrocità, la colonizzazione è comunque stato per questi paesi, non solo per la Libia ma anche per gli altri che ho citato, per l'India, per il Vietnam, fonte di civilizzazione, fonte di crescita economica, fonte di tante cose, e quindi ci sono elementi diversi con cui si possono vedere le cose. Quello che è particolare della storia dell'Italia in Libia è che l'Italia è sempre stata protagonista, l'ha invasa, ha sterminato i ribelli, ha costruito una serie di cose, poi, siccome il re libico favoriva le aziende americane e inglesi dal punto di vista petrolifero, in Italia qualcuno ha deciso che era meglio metterci qualcuno che invece fosse più vicino agli italiani. E come si è dimostrato nel tempo, Gheddafi poi alle grandi aziende italiane è assolutamente vicino. No? Poi, e quindi, dopodiché poi, come sempre, noi italiani, e questa è la nostra particolarità, voi, io parlo da italiano, quindi parlo di me stesso. Può farlo. Rispetto al fatto che siamo abituati a tradire, così come l'abbiamo messo su, gli abbiamo stretto la mano, gli abbiamo baciato l'anello, l'abbiamo ospitato a Roma in mezzo ai nostri parchi con la sua tenda, e poi quando è stato il momento l'abbiamo bombardato, perché questa è la visione balistreviana dell'Italia, e questa è l'unica parte in cui io la vedo un pochettino come Balistrevi, ecco, questa sì, perché sono cose che, vedete, la politica con Gheddafi ci ha consentito in Italia di pagare di meno la benzina di quella che l'avremmo pagata. Noi la paghiamo già tanto, ma l'avremmo pagata ancora di più se non ci fosse stata l'alleanza con Gheddafi. Quindi pragmaticamente business matters ha senso. Però tu, quando fai degli accordi che sono di business, devi sapere se li fai con un delinquente e ricordarti sempre che li hai fatti con un delinquente, e che quello è un delinquente e resta un delinquente in qualunque momento con cui tu hai a che fare. In questo gli americani e gli inglesi sono, e i francesi sono diversi da noi, fanno affari sporchissimi, ma se li fanno con delinquenti sanno che quelli sono dei delinquenti, e quindi non abbassano mai l'onore della patria. Cioè, so, gli americani non l'avrebbero mai fatto, non gli avrebbero mai fatto mettere una tenda in mezzo al Central Park, o gli inglesi a Hyde Park, a Gheddafi, no? Ecco, perché sono cose disonorevoli che non si fanno. Vabbè, basta con le cose serie, adesso divertiamoci con altre cose. Infatti volevo proprio proporre, per interrompere questo momento un pochino più introspettivo, un pochino più storico, di guardare insieme qualcosa. Siamo in un cinema, perché no? Lo facciamo? Guardiamo un book trailer, che insomma sono questi nuovi video che vengono montati, sono dei mini film, proprio dei piccoli cortometraggi che offrono le atmosfere e le sensazioni di un libro che è uscito. In questo caso era proprio per il primo libro, Tu sei il male, quindi possiamo guardarlo insieme, così vi rendete conto che sì, c'è Gheddafi, c'è la politica, c'è... No, sono dei gialli. Sono dei gialli veri e propri con thriller. Un'ambientazione dietro che è un'ambientazione sociale, è un'ambientazione storica e sociale, però sono dei gialli, non sono dei saggi, anche perché i saggi non se li legge nessuno, purtroppo, perché questa è la realtà. Io ho avuto la fortuna di conoscere Umberto Eco, che credo che sia il più grande saggista che l'Italia abbia avuto negli ultimi tempi, e mi diceva: i miei saggi vendono 3-4 mila copie, quando ho voluto vendere milioni di copie ho dovuto scrivere un giallo, cioè Il nome della rosa, ovviamente. Va bene, proviamo a vedere. Vogliamo provare, vediamo se funziona. Ah sì sì, vediamo se riescono a farlo partire. Buio in sala. Andiamo che succede. Sì. Tardelli. La nostra nazionale di calcio ha conquistato il titolo mondiale. Insomma, scusate, so che non è uno spettacolo. Penso che siate tutti insomma abituati a un omicidio, scegliendo di venire a una rassegna dedicata al giallo, e soprattutto che quest'anno si chiama Frammenti di male. Quindi qui vediamo proprio quello che troviamo in tanti dei libri di Roberto Costantini, non solo nella trilogia ma anche in quelli che seguono, quindi degli eventi collettivi, degli eventi della storia, come può essere un mondiale, ma poi ce ne sono altri, come per esempio quello di cui vi parleremo tra poco, che è il fulcro dell'ultimo libro finora pubblicato pubblicato di Roberto Cosentini, che poi vanno di pari passo con una tragedia invece che è personale, un dramma personale, un giallo, un omicidio o comunque la vita che riguarda, cioè un dramma che riguarda poche persone. Quindi c'è il grosso, c'è la storia, sì, e c'è... No, intanto penso che adesso vi siate convinti che sono dei gialli e non dei saggi, se avevate qualche dubbio. Questo è Tu sei il male, ma gli altri sono tutti più o meno così. Ricordo che quando è uscito Tu sei il male, la figlia femmina, dopo che uscì ed ebbe tutto questo successo, ancora non l'aveva letto, mi disse: ma papà, io lo leggerei, ma che ci sono dei morti? Perché più, dico sì, che è un giallo, sai? Dice no, allora no, sono morti no. Quindi se qualcuno è troppo sensibile, Tu sei il male è il meno adatto di tutti da leggere, perché è una storia effettivamente atroce, è il primo dei tre. Però diciamo, le caratteristiche dei miei gialli sono anche quelle in che il tempo ha molta importanza, oltre che lo sfondo sociale. Tutti i miei gialli si svolgono su due piani temporali diversi, quindi in ogni giallo avete due momenti diversi della vita di Balistrevi, ma del giallo in sé. Quindi questo giallo, che comincia nel 1982 con un delitto che avviene la sera della finale dei mondiali dell'82, in realtà questo delitto non viene risolto nell'82. E poi la sera del 9 luglio 2006, quando l'Italia 24 anni dopo vince un altro mondiale, succede qualcosa straordinariamente che riapre la storia di 24 anni prima. E non è una forzatura, c'è proprio un motivo per cui ci sono i due mondiali di mezzo, quindi ha un senso di questo genere. E quindi niente, questo uso del tempo, perché io credo che il tempo, ed è una cosa molto bella, c'è in alcuni gialli di Chandler un po' questo aspetto qui, il tempo ti dice sempre la verità. Se tu hai dei dubbi sul momento, è come se, vedete quanti gialli di 20-30 anni fa stanno oggi avendo delle soluzioni, è incredibile, noi dopo 20-30 anni, e se uno guarda chi sono diventate le persone, so che è un modo assolutamente ingiusto, la giustizia non può basarsi su questo, però quando poi tu guardi chi è diventata la persona che viene scoperto essere l'assassino e lo guardi, dici sì, ma è ovvio che sia così, cioè, capito? Cioè, perché non può essere, a mio parere, che una persona normale, quando parliamo di omicidi non commessi da serial killer, ma commessi da persone normali in un ambito familiare e la scampa, secondo me non può essere che la tua vita rimanga del tutto indifferente al fatto di aver ucciso un innocente in un modo atroce. Non può essere che tu abbia la stessa vita che avresti non avendo commesso questo gesto. E quindi se guardi questa persona 30 anni dopo, secondo me un'idea ce l'hai, no? Adesso è accaduto recentemente, è chiaro che non si tratta di prove giudiziarie, poi per le prove giudiziarie serve il DNA eccetera, ma poi quando dal DNA arrivi alla persona dici sì, guardando la persona e vedi che cosa è diventato, dici sì, è una persona così particolare, infelice, violenta, ancora violenta, che giustifica quello che è avvenuto prima. È un po' nei miei gialli è un po' così. E infatti poi nei suoi gialli, come si diceva, si viaggia su più piani temporali. Noi ritroviamo questo Michele Balistreri, per esempio nell'ultimo libro noi lo ritroviamo proprio in quei primi anni 70, in cui lui è appena uscito da Ordine Nuovo, nel senso Ordine Nuovo è stato sciolto, quindi si trova un po' allo sbando, così come tutti i suoi ex colleghi del movimento, e sta decidendo dove andare. È un momento molto particolare di Balistreri, perché sì, un dopo Libia, ma è un prima della caduta degli anni Ottanta, di quella superficialità. Sì, la storia di Balistrevi molto... più o meno quella che abbiamo raccontato, nel senso che lui è in Libia fino al 70, poi viene in Italia, si iscrive all'università, è un ragazzo sbandato, non gli basta il movimento sociale, che comunque per lui è un partito che sta dentro il Parlamento, ha bisogno di peggio, di più, si iscrive Ordine Nuovo, che in quel momento è ancora un circolo culturale, perché la storia di Ordine Nuovo poi subisce vari passaggi, poi Ordine Nuovo viene sciolto per legge e quelli che rimangono in Ordine Nuovo, alcuni rientrano nel movimento sociale e altri scelgono una strada che voi sapete, quella che ha insanguinato le piazze e le strade d'Italia, no? Quindi Balistrevi in quegli anni è così, prima che poi diventi un infiltrato e aiuti l'Italia a sgominare il terrorismo sia di destra che di sinistra, e poi diventi un poliziotto. Questo libro è stato per me l'ultimo, Ballando nel buio, è stato per me difficilissimo da scrivere, perché paradossalmente mentre tutta la storia della Libia degli anni 60 è una storia che io conoscevo personalmente molto bene per esserci vissuto. Questa della situazione degli anni 70 è una storia che io non conoscevo per niente, perché in quegli anni io ero esattamente lì alla Sapienza a Roma a studiare ingegneria, con la differenza che a ingegneria si studiava e basta, e quindi noi stavamo in una specie di enclave in cui tutto ciò che avveniva tra lettere, filosofia, legge eccetera era a noi assolutamente sconosciuto. Cioè io di questa storia della politica non mi sono occupato minimamente, e quindi ho dovuto proprio andare a parlare, a ricostruire tutta questa storia. La mia unica esperienza precedente con Ordine Nuovo era stata questa: un giorno credo fosse il 2003, vado allo stadio a vedere Roma-Milan. Io sono milanista, era un anno in cui Milan purtroppo ancora vinceva, adesso siamo momenti poco adatti, ma torneremo comunque, insomma, prima o poi torniamo. E questa Roma-Milan era decisivo per lo scudetto, un anno in cui poi il Milan vinse lo scudetto e la Roma arrivò seconda, Roma, quindi la Roma era avanti di un punto. Insomma, vado, riesco a ottenere questi biglietti per andare a vedere Roma-Milan, mi piazzo nel mio posto. Non mi ero portato sciarpe, di solito da ragazzo avevo il cappello di Gullit, quello con le trecce, poi sono diventato pelato, mi è sembrata una cosa poco simpatica mettermi le trecce di Gullit, per cui non avevo segni tangibili dell'essere milanista. E accanto mi arriva un ragazzotto tutto con un giubbotto di pelle, tutto insomma, piuttosto grosso, che mi fa: au, mo questi li rompiamo, questi qua di Milano. Io zitto, non ho detto niente. Mi sembra le cose dei film, però questo è vero. Dopodiché si toglie questo giubbotto, questi bicipiti, e aveva l'asciabipenne, che l'asciabipenne è il simbolo di Ordine Nuovo. Dopodiché segna Shevchenko, io zitto, sto qui comincia a tirare fuori una marea di parolacce, di cose, dice: adesso resti maledetti, ammazziamo, squartiamo. Pareggia la Roma e questo mi salta addosso e mi abbraccia, dai, dai. Risegna il Milan, e a quel punto io, facendo finta di niente, me ne vado, dico, prima che questo si renda conto, perché io non riuscivo, non esultavo, ma non riuscivo neanche a fare il contrario. Perché questa era la mia unica esperienza di Ordine Nuovo. Poi dopo, insomma, ripeto, quando io andai nel 70, tornato dalla Libia, a iscrivermi all'università a Roma, ero indeciso in realtà tra ingegneria e lettere e filosofia. Perché? Perché la mia passione era umanistica, cioè la mia vecchia passione di scrivere c'è sempre stata. Io al liceo nel 68 scrivevo già per il Corriere, a 18 anni scrivevo per il Corriere dello Sport, cioè ho ancora gli articoli pubblicati da Antonio Chiavelli e pagati dal Corriere dello Sport quando avevo 18 anni, scrivevo sul calcio in Libia. E quindi avevo questa passione e volevo iscrivermi a lettere e filosofia, poi quella, perché volevo fare il giornalista e lo scrittore. Poi quell'anno ci hanno cacciato dalla Libia, abbiamo perso tutto, noi abbiamo lasciato tutto, mio padre ha lasciato tutto, l'azienda, la casa, le macchine, le foto, io non ho una foto di quando ero ragazzino, per cui mio padre mi fece capire che forse era meglio un ingegnere che non un possibile filosofo, letterato, scrittore, giornalista, forse, tutti col punto interrogativo. Io andai a vedere alla Sapienza sia la facoltà di ingegneria che la facoltà di lettere e filosofia, notai subito delle differenze che si vedevano immediate esteticamente, nel senso che in ingegneria c'erano tutta gente gobba e storpia e cieca, calva a 18 anni, già tutti pelati. A lettere e filosofia c'era una fauna, che adesso non entro nel merito. Però ero troppo giovane, troppo responsabile, per cui mi sono scritto in ingegneria sbagliando clamorosamente, che avrei avuto una vita molto più bella se fossi scritto lì. Per cui, insomma, tutta sta storia per dire che alla fine, ballando nel buio, mi sono dovuto sobbarcare la cosa di andare a parlare con un sacco di gente che io scherzosamente chiamo fascistoni, però insomma che era indispensabile, perché altrimenti non ne sapevo assolutamente niente, per riuscire a capire quali fossero in quel momento della gioventù di destra le motivazioni che portavano a questa cosa. E secondo me questa cosa qui è espressa molto bene, che abbiamo, esatto, una canzone, esatto, abbiamo un'altra canzone, ah sì, ve lo faccio sentire e poi dopo vi dico. È la canzone con cui si apre proprio, sì, la canzone con cui si apre il libro, al Piper nel 1974. Il Piper è il locale un po' di Roma. Vogliamo sentire? Vediamo, sì, però, la vogliamo sentire, la conoscerete di sicuro. E la cosa strana è che questa canzone era stata interpretata forse per la copertina, con tutti questi pugni levati. La copertina del libro di Battisti vede una serie di ragazzi così, no? Ed e venne. In un mondo che. Le lascio sotto. Non ci vuole più. Queste parole furono interpretate di destra, Ordine Nuovo era stato appena sciolto. Libero, sei tu. e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. E quindi in un mondo che non ci vuole più divenne la bandiera dei giovani di destra, dove l'essere di destra non era legato a particolari ideali, questo ho scoperto parlando con queste persone, era legato al fatto che dovevi essere per forza di sinistra, e quindi questa era tutta gente che non voleva essere costretta ad assuefarsi a un modello. Per cui Balistreri, che in prima persona, me lo dà, certo, un attimo, solo, vi leggo solo la prima pagina, un attimino, un pezzetto, perché vi dà l'idea dell'ambientazione mentale, non dell'ambientazione fisica, ma dell'ambientazione psicologica, cioè da cosa nasceva questo essere di destra, no? E lui dice, all'inizio parla Balistreri, Michele Balistreri, che ha in quel momento 24 anni ed è al Piper. Ragazzi coi pantaloni a zampa d'elefante o gli stivaletti a punta, ragazze in gonne maxi coi bottoni o in mini stivali, una coltre di fumo densa come la nebbia di quella sera d'invernale, si poteva fumare ancora nei locali. Cantavano tutti in coro, nel buio illuminato dalle luci psichedeliche, il braccio destro teso verso l'alto come sul disco di Lucio Battisti, tutti convinti che quella canzone e le braccia tese sulla copertina del suo LP ammiccassero al nostro lato della barricata, alla destra. Era una delle tante idiozie di quegli anni, in realtà venuta fuori per colpa dei critici musicali. Erano loro, con la puzza sotto il naso della sinistra da salotto, a criticare Battisti perché le sue canzoni non erano impegnate come quelle lagne di De Gregori e Guccini. Allora, vedete, è questo, è da questa mentalità che nasce, capito? Perché queste sono parole che io mi sono sentito proprio dire, capito? Ci doveva piacere per forza quella gente lì, De Gregori, Cucci, e questo era l'ambiente che ha portato a certe cose. Può sembrare assurdo, no? Però alla fine forse questo è uno dei pochi ricordi che ho di quegli anni, che in effetti a Roma almeno bisognava essere di sinistra, se non eri di sinistra era complicato, era comunque molto complicato dire che eri di destra. Io che non ero né l'uno né l'altro, perché la politica non mi interessava minimamente, non ne soffrivo, però immagino che questo tipo di approccio sia quello che poi ha portato a... Balistreri non è omogeneo a questo, a lui non interessa nulla di tutto questo, lui è lì dentro soltanto perché quelli sono i perdenti, e quindi nella sua logica lui è sempre dalla parte di chi perde. In questo ambiente ci sarà un incontro molto importante con una ragazza e poco più là con un'altra di cui vi vogliamo parlare, perché è un personaggio riuscitissimo, soprattutto quello di Viola, quello della ragazza. Sì, allora diciamo, fermo restando che Ballando nel buio è anch'esso un giallo, nel senso che poi ci sono dei delitti che non si risolvono agli anni 70, e poi ci sarà la seconda fase a metà degli anni 80, quando Balistreri è già un commissario di polizia. Però lui in quegli anni 70, in cui ancora è al bivio, perché i vent'anni nella nostra vita sono quegli anni in cui ancora tutte le possibilità sono aperte, nonostante tutto quello che gli era già successo, ancora un'ultima possibilità c'era. Lui incontra due ragazze, una Isabella, è la ragazza che lui sa che gli darebbe la vita tranquilla, la famiglia, il calore umano, tante cose di cui lui ha veramente bisogno. Questa ragazza ha una casetta con una stufa, un gatto, lui si affeziona al gatto, si affeziona alla casetta, si affeziona alla stufa, sta bene con questa ragazza. Sa che questo percorso in qualche modo sarebbe un calmante per la sua vita, lo porterebbe verso la tranquillità. L'altra è una di ordine nuovo, esattamente l'opposto. L'altra è una pazza scriteriata, Viola, è una senza freni sotto certi aspetti, però dentro il cuore di Balistreri quella è la vita che lui effettivamente vuole. Cioè, alla fine tutti noi nella vita, penso, abbiamo incontrato nella nostra vita, anche nell'amore, quello che sappiamo che ci farebbe bene e quello che in realtà ci piacerebbe, ma non è, sappiamo che non è adatto per noi. Ecco, diciamo, e Balistreri si trova costretto a scegliere fra queste due vie. Adesso, poi, siccome magari alcuni di voi il libro avranno piacere di leggerselo, non dico più di tanto, però questa scelta caso. È la scelta fra due modelli di vita che poi portano a due vite completamente diverse. Completamente diverse. E qua è interessante, perché noi adesso ci è venuta voglia di leggere pagine dei libri di Costantini. vi leggeremo proprio un brano in cui si capisce che anche lo stesso episodio può essere raccontato in questi libri da due punti di vista diversi. Io farò il viola e vedrete che personaggio è. E Roberto poi mi seguirà, insomma. Sì, perché mi sono cimentato in una cosa veramente difficilissima su cui ero stato vivamente sconsigliato da mia moglie, che era quello di scrivere un personaggio femminile in prima persona. Mia moglie mi ha detto: ricordati che tu sei arrivata a 65 anni e le donne non le hai mai capite, non le capisci neanche adesso. Lascia per, scrivi dalla testa di Balistreri, che è un matto furioso, però più o meno ormai ti sei immedesimato, lascia perdere di scrivere personaggi femminili dal punto di vista loro in prima persona, perché non ci riesci. E poi in effetti quando l'ho scritto mi ha detto: vedi, la dimostrazione, non sei capace, non capisci niente delle donne. E quindi e ci ha messo mano lei, insomma, un po' li ha rielaborati. E questa nostra Viola, insomma, si ritrova, lei innamorata cotta di Michele, come tutte queste altre donne che conosciamo nei vari libri. Lei ha 18 anni, è più giovane. Lui mise la bottiglia su un muretto basso e mi spiegò come stendere il braccio e mirare. L'allenamento nelle arti marziali serviva anche a stare immobile, concentrata. Fu sufficiente un colpo. La bottiglia di Martini Bianco andò in frantumi, ma non mi bastava. Volevo essere sicura che Isabella Mulas, l'altra, non si mettesse più tra noi. Volevo una prova d'amore definitiva. Puntai la pistola su quel maledetto gatto e prima che lui potesse fare qualcosa, permetti il grilletto. Questa è Viola. Il gatto era il gatto che Isabella aveva regalato a Michele. Fidel. Fidel, il gatto chiamato Fidel. E adesso lo leggiamo dal punto di vista di Michele Balistreri. Erano passati 25 giorni da quando ero andato con Viola a Fregene per parlare con Giulio, come mi aveva chiesto di fare il mio capo. Erano stati peggiori. Dopo che lei aveva ucciso Fidel, la odiavo davvero e l'avevo volentieri strangolata mentre a letto esibiva i suoi gemiti e sospiri. E ovviamente avevo pensato ogni ora, ogni giorno a Isabella Mulas. Ritrovarmela davanti era stato tremendo, ma anche logico. Io le avevo raccontato tante bugie. E quando quella maledetta di Viola le aveva detto di avermi accompagnato al tufello, aveva capito che Africa non era soltanto un beautiful loser, un bellissimo perdente, ma un inaffidabile e violento bugiardo, che è esattamente la verità. Vabbè, questi sono i tormenti del giovane Balistreri, come si potrebbe dire, parafrasando il giovane Werther, che all'interno di questa storia, che come avete visto in Tu sei il male è un giallo in cui muoiono un sacco di persone, non si capisce chi le uccide, però sta risolvendo il dilemma della sua vita tra questi due amori, per cui Ballando nel buio, forse dei miei libri insieme alla Moglie perfetta, che è il quarto, è quello che più parla d'amore, solo che la Moglie perfetta parla di un Balistreri cinquantenne e sessantenne, quindi di un amore maturo, e questo è quando ancora 20 anni. E noi stiamo aspettando il sesto. Ah sì, tanto ormai adesso persino i miei figli si sono rassegnati, quindi insomma ormai si sono convinti. Fabrizio, da quando uscì Tu sei il male, allora Carolina disse che non lo poteva leggere perché c'erano troppi morti e lei si impressiona, quindi tuttora non ha mai letto un mio libro. Il maschio, che è quello che disse, si vede che la letteratura italiana è ridotta proprio uno schifo, ha attraversato varie fasi, nel senso che di accettazione, nel senso che lui per lungo tempo ha dichiarato di non aver letto Tu sei il male, quando Tu sei il male era stato già tradotto in 15 paesi, venduto dappertutto, stavano sviluppando la sceneggiatura, eccetera, eccetera. Poi un giorno la donna delle pulizie trovò sotto il suo materasso una copia di Tu sei il male, tutta con le orecchie, sottolineature, cose, eccetera, quindi ha proprio studiato il libro. Però io con i ragazzi di quell'età, poi i maschi, Fabrizio è grosso il doppio di me, tutto peloso, poi a quell'età sono l'età delle trasformazioni, per cui per carità ti dà uno sganassone e ti ammazza, per cui nessuno gli ha detto abbiamo fatto finta di niente. Poi una sera parlando a tavola, lui mentre parlavamo di non so quale film, forse proprio di Seven, quello che vedete stasera, disse: ah, ma questo è come avrebbe fatto Balistreri. Allora, è stato un attimo di cosa, dice: ma che, perché tu l'hai letto? Io ho detto: ma sì, gli ho dato un'occhiata, c'era questo libro qua, tutto sottolineato, gli ho dato un'occhiata, non è male. Deve sapere che mio figlio poi ha studiato sceneggiature in America, quindi anche lui ritiene di essere lui sì il genio della famiglia, io non so se questa cosa, Poi sapete, i maschi col padre è sempre un problema. Per cui mi disse, però, dice, guarda, se tu vuoi capire bene come scrivere i gialli, aspetta un attimo, andò di là e trovò fuori dalla camera sua e mi portò un libro di Faletti. Mi disse, leggiti questo, perché così vanno scritti. Tenete conto che a me Faletti piace, in particolare il primo di Faletti, Io uccido me. Lui mi portò questo libro di Faletti, che è l'unico libro di Faletti che a me non piace assolutamente, che è questo in America, adesso non mi ricordo, violentissimo, si chiama Io sono Dio, una cosa di questo genere. Pilota di Lico. Sì, che a me non è un libro che non piace assolutamente. Lui mi disse, leggiti questo, così impari. Allora, quindi adesso, dicendo, per rispondere alla tua cosa, sì, siamo arrivati al sesto con grande fatica, man mano ci siamo evoluti. Per esempio, sul secondo libro, quello quando Balistrieri ha 16 anni, i dialoghi tra Michele, giovane, sedicenne, e i suoi amici, che è questa banda di assassini, questa banda di quattro ragazzini che diventano gradualmente quattro assassini, perché insomma, Balistrieri ce n'ha tante di cose. Secondo il mio editore, i dialoghi erano scritti male, perché io non ero più in grado di scrivere i dialoghi tra sedicenni. E quindi l'ho messo in mano a Fabrizio, che si è prestato e se li ha riscritti tutti, e l'editore, senza sapere che l'aveva riscritti mio figlio, è stato molto soddisfatto di questo. Quindi pian piano il rapporto si è, diciamo, migliorato, diciamo, è migliorato. E quindi adesso però lui mi consiglia vivamente di liberarmi di questo Balistrieri, tutti i modi possibili. E c'è qualcosa di vero in questo, nel senso che il sesto libro ci sarà ancora Balistrieri, lo sto scrivendo, uscirà a ottobre, però ecco, questi personaggi secondo me esauriscono un pochettino chi scrive, e io me ne rendo conto anche quando leggo scrittori che amo, nel senso che se leggo Camilleri mi rendo conto che su Montalbano non c'è più nulla da dire, però a volte si ama talmente il personaggio, l'ambientazione, che non ha importanza se non c'è più niente da dire. Io, avendo scelto un po' però la storia di una vita, e quindi avendo scelto una logica in cui a un certo punto la vita, come posso dire, cioè Balistrieri fa il commissario di polizia, poi fa una cosa, arriva a 60 anni, va in pensione, alla fine devi andare in pensione, perché tutti, anche se in Italia c'è la Forneo, poi piano piano in pensione ci devi andare, insomma, in qualche modo. Quindi persino Balistrieri va in pensione, dopo la pensione può ancora risolvere qualche caso, sì, però insomma, poi a un certo punto muore questo, insomma, muore di vecchiaia, anche se non lo voglio. Tutti mi sconsigliano, perché l'editore non vuole assolutamente che Balistrieri sparisca, i miei lettori non vogliono che Balistrieri sparisca. Il mio grande amico Giancarlo De Cataldo, che è quello che ha scritto il romanzo criminale, mi ha sempre detto che il suo più grande errore nella vita è stato quello di far morire il libanese, che è stato un errore, che uno scrittore non dovrebbe mai uccidere il suo personaggio principale. Camilleri, che ho avuto il piacere di conoscere, mi ha raccontato questa... Camilleri è fantastica, una persona veramente fantastica, mi ha raccontato questa storiella a proposito dell'uccidere il proprio personaggio, in cui lui... parlò con Montalbán. Voi sapete che Montalbán, scrittore spagnolo famoso, da cui lui ha preso il nome di Montalbán, e Montalbán gli disse che aveva intenzione di far morire l'ispettore Carvalho, che è l'eroe di Montalbán, e stava scrivendo il libro di far morire Carvalho, e morì Montalbán mentre scriveva quelli. Per cui Camilleri disse a me Montalbán, oh, oh, docco, manco morto, non muore mai. Scendo le corna, né? Per cui io, che sono più meridionale, essendo nato in Africa, di Camilleri stesso, per la fatto di far morire Balistrieri, non voglio assolutamente. No? È come quando, mi ricordo, una delle prime presentazioni sulla trilogia, qualcuno mi disse: ma lei è come Stieg Larsson? Io dissi: dico, per carità, dico, Stieg Larsson prima di tutto ha venduto 10 milioni di copie, io ho venduto 100.000 copie, ma poi quello è morto. Preferisco essere paragonato a scrittori viventi comunque. Per cui adesso, questo sesto ci sarà ancora Balistrieri, e uscirà a ottobre, e non so ancora come si chiama, stiamo facendo il solito giro di titoli, che, insomma, sì, che è una delle cose più divertenti, perché esce veramente di tutto. Ci sarà il male? No, basta il male, basta, perché poi, insomma, ripeto, i miei figli sono sbizzarriti quella volta, col fatto, meno male che finisce, non, insomma, tutte queste cose qua, quindi col male basta, adesso vedremo che cos'altro verrà fuori. E poi vediamo, insomma, poi ogni testa, ormai Fabrizio ogni tanto mi accompagna anche alle presentazioni, perché lui sta qui a Milano, adesso non poteva venire oggi, altrimenti sarebbe stato contento di vedere suo padre che parla a una sala così piena. Io vi ringrazio, perché voi dovete sapere che io ho sempre lo shock della mia prima presentazione. Io, quando uscì Tu sei il male, la Marsilio, che è il mio editore, mi disse: ah, lo presentiamo al congresso del PD a Pesaro. Dico: ma siete matti, il congresso del PD, questo è fascista. Dico: ma qualcuno l'ha letto il libro? Ma poi dico: che c'entra un giallo col congresso? No, perché no, il congresso del PD qualcuno l'ha letto, lo vuole. No, no, non so. Allora io mi metto, Ci abbiamo ancora 5 minuti. Penso fatemi di chiediamo a Fabrizio. Proprio 5-5. Allora, vabbè, racconto questa cosa perché è divertente, così chiudiamo sulla nota divertente. Allora, mi metto in viaggio per Pesaro. Voi dovete sapere che da Roma ad andare a Pesaro, Pesaro è sull'Adriatico, no? Mentre l'Italia da Roma in su funziona perfettamente, da Roma verso destra è un macello coi treni, perché non si arriva mai, i treni devono passare l'Appennino, sembra che debbano scavalcare le Ande, le Alpi e tutto quanto. Per cui io prendo questo treno, dovevo, la mia presentazione doveva essere alle 7 di sera, perché poi alle 9 parlava il segretario del PD, che allora era una persona molto ascoltata, si chiamava Pierluigi Bersani, oggi non lo ascolta più nessuno, però insomma, allora lo ascoltava. Per cui io mi metto in treno, a metà percorso, questo treno si ferma in una bellissima stazioncina di un paesino, si ferma e non parte più. Non parte più, nel senso non parte dopo 10 minuti, non parte dopo mezz'ora. Vedevo poi tutti tranquillissimi. Allora comincia a chiedere, dice no, ma si ferma sempre. Mi dico, si ferma sempre, ho capito. Dico, ma allora chiamo questi qui a Pesaro, dico scusate, qui il treno è fermo. Dice, ah sì, è vero, si ferma sempre, non si preoccupi. Dico, ma me lo potevate dire, venivo in macchina. Per cui, fatto breve, io arrivo a Pesaro, al congresso del PD, alle 9:05, con 2 ore di ritardo. Per cui dico, vabbè, ormai non si farà la presentazione, mi inviteranno a cena. No, la presentazione si fa, poi c'era quell'organizzatore, l'equivalente della Terese, che doveva presentare, cioè 4-5 persone, erano in 4-5 a presentare, insomma, c'è la sala piena, abbiamo prenotato la sala grande, è una sala molto più grande di questa. Arriviamo dietro, c'era la tenda chiusa, arriviamo, si apre la ronda e c'erano 2 persone, che erano 2 fidanzatini, che quando abbiamo acceso le luci se ne sono andati, perché questi stavano lì al buio per motivi... Perché doveva parlare Bersani alle 9, e siccome allora Bersani lo ascoltavano, oggi io dico, oggi mi ascoltano a me più di Bersani, per cui sono capovolte le cose. Ho fatto questa battuta terribile sempre, l'ultima volta, siccome poi giro tanto non mi rendo conto, l'ho fatta a Reggio Emilia, ho visto che le facce si sono incupite moltissimo, poi mi sono reso conto di dovevo, ho dovuto chiedere scusa umilmente, che Reggio Emilia è la base elettorale di Bersani. Mi sono battute da non fare queste cose. E vabbè, insomma, comunque, direi che quando cose... vedo molto pubblico sono sempre molto contento, perché ho subito varie umiliazioni nel tempo a partire da questa, quindi mi rincuora sempre. Le cose sono andate benissimo stasera, direi, anche il pubblico, no, è pubblico, stato eccezionale. Pubblico, grazie. Grazie Roberto Costantino. Grazie. Bene. Grazie a Roberto Costantini e grazie a Deborah Gabaglio. Devo dire che arrivati alla fine sono state proprio 3 serate, 3 mondi diversi, 3 mondi che comunque meritavano di essere conosciuti.